Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Abbiamo i titoli del nostro sommario, ma abbiamo anche un bel Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione, quindi direi siamo assolutamente pronti, partiamo. Orecchio, non sempre la vacanza gli giova. Musica maestro e la vita ti sorride. L'insonnia con le donne è più severa. Orecchio, a volte basta poco per mandarli in crisi e sono dolori. Un bagno in mare o in piscina, un cambio di altitudine, magari una serata in discoteca con la musica sparata a tutto volume ed ecco che arriva il conto. Dolore, senso di ovattamento, fischi, ronzii e anche quella spiacevole sensazione, non so se voi l'avete provata, io sì, di sentirci un pochino meno. Tutto questo però per fortuna si può evitare o limitare sensibilmente, a patto che impariamo, direi, a prenderci cura delle nostre orecchie per evitare le situazioni a rischio e soprattutto per riconoscere per tempo eventuali segnali di sofferenza che potrebbero trasformarsi in emergenze. 800 24 0024, se volete occuparvi delle vostre orecchie con noi, i messaggi 349 238 6666. Oggi in studio è tornato a trovarci il dottor Andrea Franzetti, che è primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Dottore, buongiorno a tutti. Ho sempre paura di inciamparmi in otorinolaringoiatria, che è quasi uno scioglilingua. No, ma lo dici benissimo. Ma magnifico. Allora, dottore, noi oggi seguiremo un po' le nostre vacanze, per le nostre orecchie, perché le portiamo in vacanza al mare, in piscina, in aereo, insomma, parleremo anche di immersioni, perché no? Però, prima di partire, ci faccia capire se ci sono delle orecchie più a rischio di altre. Non possiamo cambiarcele, naturalmente, ma uomo avvisato, mezzo salvato. Certo, ma ci sono due cose che uno sicuramente si rende conto anche senza essere un dottore. Cioè, la prima cosa è se gli capita spesso in periodo estivo di avere dei problemi e quindi lo collega al periodo estivo, quindi si può guardare dentro il problema. L'altra cosa invece sono degli aspetti anatomici particolari che in modo particolare il condotto uditivo può avere, perché chi ha per esempio il condotto uditivo molto stretto oppure ha una tendenza a desquamare molto la pelle, magari per forme eczematose o cose del genere, sicuramente è più esposto ad avere dei problemi durante l'estate, quando aumenta la sudorazione, quando aumentano i contatti con l'acqua o altre sostanze. E noi parleremo di tutto questo. Orecchia sventola non rischiano più di altre. Le orecchie sventola esattamente come le altre. Magnifico, no, perché ero un po' interessante. 800 24 0024, restate con noi se soffrite quindi di problemi soprattutto in estate. Questi problemi li traduciamo con otiti. Sì, e diciamo non solo. Così, non solo. Non anticipiamo tanto, esatto. Scopriamoci poco a poco. Ma anche se, direi, quando salite di quota vi si tappano le orecchie, è un fisiologico, è normale, ma il dottor Franzetti ci spiegherà bene quando è normale, quando invece ci deve essere il sospetto. Come anticipava il dottor Franzetti, a volte le nostre orecchie ci danno dei problemi a livello del condotto uditivo. Ci raggiungerà il professor Monfrecola, un dermatologo, che ci racconterà anche qualcosa che può dare fastidio proprio ai bordi del padiglione auricolare. Quindi parleremo in lungo e in largo delle nostre orecchie, ci addentreremo sino all'orecchio interno, che è il cuore dell'orecchio, sede del labirinto, quindi se anche avete degli sbandamenti, chiamateci. Direi potete anche scriverci 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voglio proporvi un esperimento rinfrescante. Allora, fate così. Immergete un diapason che vibra alla frequenza di 440 cicli al secondo in un bicchiere pieno d'acqua. Aspettate pochi secondi e sarete piacevolmente toccati da degli spruzzi d'acqua. Allora, con il caldo di questi giorni, se questo funziona, se un diapason è capace di far schizzare queste goccioline d'acqua rinfrescanti, verrebbe voglia di mettere un'orchestra intera dentro una piscina per capire, no, quale massa di acqua riesce a sollevare. Ma noi, quando parliamo di musica, di suoni, abbiamo bisogno della dottoressa Erico Sibillo, che è prontamente venuta a trovarci. Dottoressa Sibillo, buongiorno. Buongiorno. Medico, esperta di musicoterapia. Allora, dottoressa Sibillo, da ogni fonte musicale sembra che si sviluppi una forza. Questo esperimento è facile da eseguire e ci fa toccare con mano questa legge, forse una legge fisica? sì, è una legge fisica legata sempre alle nostre vibrazioni sonore. Quindi se abbiamo visto che un diapason, come giustamente ha detto lei, e consigliamo sicuramente questo esperimento in questa calura estiva, sì, immaginate le vibrazioni che arrivano appunto da un'orchestra sinfonica o da un concerto di musica rock, che però evitiamo di mettere in una piscina, perché altrimenti... Sì. Meglio l'orchestra, allora. Assolutamente. Direi che appunto da ogni fonte musicale si sviluppa proprio una forza misurabile, quantificabile, che, attenzione, ci influenza e ci dirige. E questo sia che noi lo si voglia o non lo si voglia, che si sia coscienti o incoscienti, insomma questa forza vibratoria della musica entra in noi. Quindi vorrei farvi fare un altro piccolo giochino, sì, che è un esperimento in realtà fatto da uno scienziato svizzero molto importante e molto noto. Allora, cosa fece questo scienziato? Mise uno strato sottile di sabbia su una lastra di metallo, poi questa lastra di metallo andò a fissarla alla cassa armonica di un violino in senso orizzontale. Ora andrà bene qualsiasi altro strumento, noi ci rifacciamo all'esperimento originale. Va bene anche una chitarra. Va benissimo anche una chitarra, perfetto. Mm. Prese l'archetto del violino, in questo caso prendete le vostre dita e toccate le corde della chitarra, o se appunto avete il violino, strofinate l'archetto del violino sulle corde, e si accorse che appena la vibrazione si propagava al metallo, la vibrazione che proveniva dallo sfregamento delle corde si propagava al metallo, i granelli di sabbia cominciavano a muoversi. Una danza! Sì, non solo, ma si organizzavano in configurazioni ben precise. Non solo, ma poi che cosa ha fatto? Non si è fermato lì, variando i materiali sparsi sulla lastra di metallo, quindi non solo con la sabbia, e variando le frequenze, quindi suonando più o meno forte, vedeva che queste configurazioni si modificavano. Ma cosa ancora più importante è che queste configurazioni riprendevano forme presenti in natura. Da queste ricerche che cosa si arrivò a pensare, a convincersi gli scienziati? Che la vita fosse veramente il risultato delle vibrazioni specifiche di ogni cellula, il che significherebbe che ogni cellula ha un suo suono, o diciamo pure una sua nota. Quindi, dottoressa Sibillo, la musica entra in noi, la musica ci guida, insomma fonte di vita. Sì, fonte di vita, ma attenzione però, perché l'ascolto di musica non sempre può tranquillizzarci, qualche volta può renderci anche un pochettino aggressivi, perché l'energia della musica in fin dei conti è stata definita neutra, nel senso che poi dipende da ognuno di noi sapere ciò che si desidera ottenere ascoltando un genere musicale piuttosto che un altro, sviluppando anche la propria sensibilità per poter arrivare a percepire gli effetti sul proprio corpo e sulla propria mente. Quindi mettiamoci all'ascolto, non subiamo sempre passivamente l'influenza delle vibrazioni quando le onde invisibili della musica ci toccano. Quindi se riteniamo che per esempio un certo ascolto musicale ci provoca fatica, aggressività, insomma non ci sta bene, non suona le nostre corde, esattamente, cosa facciamo? Si cambia genere. Ecco, niente ci deve impedire di allontanarci da quella fonte sonora. Quindi i sentimenti vengono risvegliati dalla musica, e l'esperienza poi di queste emozioni può essere ripetuta più e più volte. Infatti la natura è di quelle che sono poi le nostre musiche, facciamoci caso, si imprime poi anche nei nostri comportamenti, nei nostri... Ma certo. Tant'è vero che la frase che dice così nella musica, così nella vita, trova proprio spiegazioni anche in queste. Quindi... C'è anche una scrittrice che mi ricordo, che non ricordo esattamente il nome, ma scriveva: più la musica è dolce, più richiama l'amore. Direi proprio di sì. E allora chiudiamo con questa nota, direi romantica, dottoressa Sibillo, e noi le diamo appuntamento per un prossimo incontro, sempre musicale. Sono d'accordo con lei e buona musica a tutti. Grazie, l'aspettiamo, buona giornata. Pronto soccorso. Dottor Franzetti, evviva, brava Martina Grimaldi. Bravissima. Le fischeranno le orecchie adesso, sicuramente. Speriamo che bagnandole non abbia problemi. Senta, io tornerei a parlare proprio delle nostre orecchie, dei problemi, di un problema che spesso arriva d'estate, e come la Befana arriva di notte, l'otite. Certo. Di solito arriva dopo bagni in piscina, al mare, specie nei bambini. Allora diamo la colpa ai tuffi, al bagno, è corretto? No, più che ai tuffi, al fatto che l'orecchio viene bagnato e in modo particolare può mantenere al suo interno parte di quest'acqua che è contenuta nella piscina, nel fiume, nel lago, nel mare o dove siamo. E paradossalmente, con più è cosiddetta pulita l'acqua, sì, cioè più è ricca anche di microrganismi, con più può dare delle infezioni. E quindi? E quindi infezioni che nascono dal fatto che quest'acqua rimane nell'orecchio, magari c'è un pochettino di cerume piuttosto che un pochettino di tessuto dermico che è squamato, diventa un terreno di cultura per i germi e per i batteri e si sviluppa una cosiddetta otite esterna, che tra l'altro è anche molto dolorosa. Allora, che cosa fare per evitarla e cosa fare, perché dicevamo arriva sempre appena i primi giorni di vacanza, il bambino nel cuore della notte inizia a piangere e la mamma sa. Certo. Di nuovo l'otite. Allora, che cosa si fa per prevenirla? Ma la prima cosa è, prima di andare a fare questi bagni, magari prima del periodo estivo, dare un'occhiata a questo condotto da parte del pediatra, dell'otorino o di qualcuno che possa verificare che questo condotto sia libero. E questo è il primo passo. Questo va bene per i bambini e per gli adulti, certo, per tutti. La seconda cosa è che esiste la possibilità, alla sera, dopo aver fatto i bagni durante il giorno, essersi lavati, asciugati, eccetera, di mettere delle goccine disinfettanti all'interno del condotto che possono, in un certo senso, sterilizzare gli eventuali germi che rimangono all'interno del condotto la notte. Tutte le volte? Alla sera, certo, uno mette due o tre goccine. Ma cosa sono le goccine disinfettanti? Ma ci sono dei disinfettanti che... Io vado in farmacia e dico, mi dia un disinfettante per l'orecchio. Sì, delle gocce disinfettanti per le orecchie, ci sono vari tipi e varie forme, e ci sono anche le forme omeopatiche, oltre a forme farmacologiche particolari. Questo dipende anche dalla frequenza del tipo di otite che uno di solito sviluppa, e quindi vengono messe due o tre goccine la sera, che è una banalità. Nel senso... Quindi per le persone che sono a rischio di otite e la loro storia glielo ricorda, certo, questa precauzione può evitare. Certo, quando uno fa il bagno durante il giorno, la sera si lava, si asciuga e mette due o tre goccine. E via. I tappi servono? I tappi servono relativamente a poco per quel che riguarda le otiti del condotto uditivo esterno. Possono servire se invece uno ha dei problemi al timpano, quindi per evitare il contatto a lungo dell'acqua col timpano. Quindi se avete avuto un problema di timpano, che è tradotto in... parole semplici, o perforazioni o irritazioni o otite croniche nei bambini o cose del genere, potrebbero ridurre il numero di otiti. Senta, e invece se il dolore, nonostante tutte queste precauzioni, o per chi magari non avesse seguito i suoi consigli, arrivasse all'improvviso, che cosa dobbiamo fare? Partiamo con i farmaci giusti in valigia, pochi ma quelli che servono. Certo. Come si calma il dolore da otite? Allora, intanto la prima cosa è che non bisogna prendere degli antibiotici per bocca subito, perché non ha molto senso, soprattutto perché non diffondono nel condotto uditivo in maniera adeguata. Sì. Quindi si possono portare delle gocce che contengono anche degli antibiotici associati a degli anestetici. Queste vengono vendute tranquillamente in farmacia. Queste gocce vengono messe abbondantemente nel condotto uditivo e fanno sia l'effetto antibatterico che l'effetto analgesico e anestetico locale. E poi si può prendere un analgesico per bocca. Quindi almeno lì per tamponare la situazione. Certo. Poi è necessario andare dal medico? Bisogna astenersi dal fare i bagni i giorni successivi, questo sicuramente. Sì. E poi se la cosa perdura oltre 24-48 ore, allora bisogna farsi dare un'occhiata. Conviene sempre. Non andiamo al mare se abbiamo l'otite, però al mare magari possiamo passeggiare, prendere il sole e a volte a farne le spese ancora una volta al nostro orecchio, non come dolore, ma proprio la pelle del nostro orecchio che si scotta, perché lì è più facile che magari uno si dimentichi di mettere la protezione. E non è da sottovalutare. E non è da sottovalutare, perché si prendono... In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Monfrecola, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Chi ha i capelli corti e chi si dimentica di avere le orecchie spesso la paga cara, professore. Sì, soprattutto quelli che sono piuttosto chiari e quelli che spendono molto tempo del giorno all'aperto, perché naturalmente il padiglione auricolare, il collega Torino ne è un esperto, è quello che maggiormente ne risente, in quanto i raggi solari piovono dall'alto e quindi vanno a picchiare proprio lì. E qualche volta che cosa accade? Ci appassioniamo molto al fattore di protezione dei filtri solari, mentre invece pochi si appassionano invece alle modalità di applicazione del filtro solare, che va applicato sì, ma non come spesso si fa, giusto sul naso, sugli zigomi, sulle spalle, e in realtà poi alcune zone, come appunto il padiglione auricolare, vengono trascurate, e questo può comportare un po' di fastidi, arrossamenti nelle prime fasi, ma poi a lungo andare, immagino una persona anziana che per lavoro, per hobby o per altro ha speso molto tempo al sole, può cominciare ad avere in tarda età delle squamette, chiamiamole così, un po' di desquamazione sul bordo, poi degli spessimenti, e che queste sono a volte delle cheratosi attiniche. In parole povere sono delle precancerosi che possono manifestarsi intorno ai 40, 50, 60 anni d'età e che in qualche caso possono dar luogo anche a dei carcinomi spinocellulari. Adesso non vorrei spaventare le persone, per carità. Però insomma, ricordatevi delle vostre orecchie. Professor Monfrecola, ci scrive Adele se lo stick per le labbra va bene anche per le orecchie come protezione. Direi di sì, anche perché è piuttosto pratico. Molte aziende producono questi stick che uno può tenere nella borsetta e che quindi danno la possibilità di essere, come dire, praticamente, facilmente riapplicabili durante il giorno, perché capirà, qui parliamo delle orecchie, non parliamo della persona che va al mare soltanto, ma chi anche gira in città con una bella giornata o con belle giornate, va al parco, va a fare con le orecchie esposte, insomma. Professore, ci sono anche proprio sui bordi del padiglione auricolare dei piccoli nodulini che a volte danno fastidio quando ci appoggiamo la testa al cuscino. Sì, questa è una buona domanda, perché questa è una cosa piuttosto comune in persone sopra i 50 anni. Il termine tecnico piuttosto complesso è condrodermatite nodulare dell'elice, ma andiamo al pratico, si tratta di nodulini, come ha detto lei, di colore della pelle normale, a volte rosi, piuttosto duri, proprio sul bordo dell'elice, quindi il bordo del padiglione, e che sono proprio dolorosi soprattutto per la pressione. La reale natura di questi noduli non è ben chiara, certamente vanno presi in considerazione un po' per il fastidio che danno, un poco perché a quell'età, come ho detto poc'anzi, possono entrare in diagnosi differenziali, quindi possono essere confusi con quegli altri nodulini che invece potrebbero essere dei piccoli tumoretti cutanei. Allora la prima cosa da fare in questo caso, un po' per il dolore, un po' per una prevenzione, è farsi vedere dal dermatologo e così capire di che natura sono questi nodulini. Se per caso sono i noduli del dolorosi, e beh, lì la cosa diventa un po' complessa, perché non bastano le creme ammorbidenti, a volte è necessario operare, e qui entra in gioco il chirurgo. Pratico, il dermatologo, il dermatochirurgo o anche l'otorino, per togliere via questi nodulini che possono essere fastidiosi, ma questi sono casi abbastanza eccezionali, però in genere sono fastidiosi, sono molto dolorosi. Almeno sappiamo se ce lo troviamo tante volte, che cosa sarà? Ecco, magari sentendo questa trasmissione uno riesce a darsi una risposta. Professor Monfrecola, io ho ancora bisogno di lei, prima di lasciarla scappare, per parlare del condotto uditivo, a cui accennava già il suo collega, il dottor Franzetti, che è in studio con me. Questi eczemi, giusto, dottor Franzetti, come l'ha definito? Questa pelle un po' squamosa? Certo. Professore. Sì, il collega ha fatto un giusto accenno e qui noi come dermatologi possiamo entrare in questo. Vede, esiste una, chiamiamola patologia, ma una condizione non veramente patologica, che noi chiamiamo dermatite seborroica, che è quella poi che comunemente nel bambino viene chiamata crosta lattea, nell'adulto fa quelle squamettine un po' untuose, gialline, una sorta di forfora più evidente al cuoio capelluto, accompagnata da prurito. Ora, dato che si va a localizzare in zone cosiddette seborroiche, e anche il condotto uditivo può essere interessato, per cui si assiste a volte a delle manifestazioni di questo genere, c'è desquamazione proprio nella prima parte del condotto, che però messe insieme a questa forfora abbondante al cuoio capelluto possono farci pensare alla dermatite seborroica, e in quel caso lì, ecco, poi bisogna provvedere periodicamente a dare un aiuto, che può essere con qualche piccola lozione cortisonica da usare per brevi periodi sotto consiglio dell'otorino o del dermatologo a seconda dei casi di chi ha fatto la diagnosi, e poi cercare di tenere la zona, come dire, un po' con degli emollienti, in maniera tale che la cosa tenda a non ritornare facilmente. Purtroppo tende a recidivare, ma questo, diciamo, lo mettiamo in conto. E l'estate è una stagione a rischio per questa forma di eczema, perché si sta un po' a lungo, l'acqua entra dentro l'orecchio, vero? Sì. Un tappino ce lo mettiamo, professor Monfrecola? Dottor Franzetti non è d'accordo, no, lei? Nemmeno io sono d'accordo, perché sa che cosa facciamo? Andiamo ad alterare un equilibrio che bene o male la nostra pelle può avere, quindi mettendo il tappo noi creiamo macerazione, creiamo un microambiente caldo-umido che può dar luogo, e come giustamente il collega Torino ha detto poc'anzi, a dei problemi. E aggiungerei anche a quello che è stato detto un'altra cosa che a me è capitato facendo un po' di attività subacquea, è quella di andare in posti tropicali e non considerare che il plankton che c'è in questi posti tropicali, penetrando nel condotto uditivo e non venendo risciacquato bene, come è stato suggerito poc'anzi, potrebbe dare dei problemi. Quindi sempre sciacquare con acqua dolce, direi, dopo le immersioni. Sempre. Questa è una regola che vale per tutti, vero? Bagni tropicali e non. montagne tropicali o no, direi. Professore, poi lei vivendo a Napoli il mare ce l'ha così comodo, la invidio molto, ma lei è stato così gentile e quindi mi è simpatico. Grazie professor Monfreco, la buona giornata. Un saluto a lei, a tutti quanti. Andiamo a Vicenza, ci aspetta Martina, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno Martina, come va? Bene, bene, la ringrazio. Bene, sta partendo per le vacanze? Sì, la settimana prossima. Allora, noi adesso oggi ci occupiamo delle sue orecchie o forse di qualche orecchia lei vicina? Di mio figlio. Di suo figlio. Quanti anni ha? Ha 11 mesi. Piccino, bene, bene, il dottor Franzetti sicuramente riuscirà a darle qualche indicazione. Che cos'ha questo piccinello? Allora. Achille suda molto, suda tantissimo e ha sempre le orecchie sporche. Ogni giorno ha delle croste in pratica. Sì. E non so come pulirle. Ma allora, buongiorno Martina intanto. Ma intanto tenga presente che nei bambini così piccoli il fatto che si formi dello sporco nelle orecchie è prima di tutto una difesa, non è una malattia. Quindi non è che dobbiamo accanirci a tutti i costi a togliere lo sporco che lui ha. Quindi l'ideale è, senza entrare nel condotto, pulire soltanto all'esterno, come si riesce, anche con un piccolo batuffolo o un piccolo cotton fioc, però senza entrare nel condotto, un pochettino di acqua e sapone fin dove si arriva all'esterno. All'interno, se lui non si lamenta, non si tocca l'orecchio, non se lo tira, perché a volte si capisce anche i bambini così piccoli non riescono a esprimersi, però noi ci accorgiamo quando dà fastidio l'orecchio. Se lui non lamenta questi fastidi, io non esaspererei troppo il problema della pulizia di questo orecchio, perché è una difesa. Quindi un po' di sporchetto aiuta, soprattutto perché il cerume... Nei bambini così piccoli assolutamente sì. Fabrizio invece ci chiama da Imperia. Buongiorno Fabrizio, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Siamo buongiorno. Qua. Allora, senta, io provo a chiamarvi, ho questo problema. Ma sì, proviamo. Fabrizio, tanto... ormai più o meno da 47 anni. Con questo problemino? Sì, quando vado sott'acqua, anche solo ad 1,5 metri, 2 metri di profondità, quindi non molto, avverto subito un dolore forte alle orecchie e quindi così ho delle difficoltà di compensazione e tentando tutti i sistemi che dicono gli amici, mandare giù la saliva, eccetera, non riesco. Quindi ho questo dolore. Ma Fabrizio, oltre a avere il dolore, l'orecchio si chiude, si tappa, non riesce a una sensazione di ovattamento? Oppure solo dolore? Dolore, e se mi forzo, cercando di andare più giù, il dolore aumenta ovviamente. E questo e poi... è proprio legato al fatto che probabilmente è un difetto della tuba, cioè di quel canalino che collega l'orecchio col naso, che non aprendosi in maniera adeguata e lei aumentando la pressione sul timpano è causa come una contraddizione dentro l'orecchio e le dà queste fitte, capisce? Per cui bisogna andare a fare delle indagini più che sull'orecchio, sul naso e su questo canalino qua. Insomma, è un problema di tuba, Fabrizio. Posso darvi un altro input? Prego. Guardi, noi abbiamo i mercati... Eccoci, siamo di nuovo insieme, 800 24 0024, è il nostro numero verde per parlare di orecchie e stiamo parlando delle orecchie di Fabrizio. Fabrizio. Eccomi, sì. Eccomi. Abbiamo già pensato che è la tuba, la responsabile di quel dolore che lei avverte quando si immerge. E proprio la zona del naso, come ha prima giustamente individuato il vostro medico, io sento anche dolore nella zona frontale. Certo. Fabrizio, il problema è proprio lì, bisogna indagare quella zona lì, però un consiglio, dopo 47 anni indaghiamo quella zona lì, però stia a galla, non vada troppo sotto. Perché... molto. Va bene Fabrizio, grazie per essere stato con noi, ci faccia sapere. Noi invece adesso andiamo a sentire, ci sono delle ricerche interessanti che abbiamo selezionato e ci ha commentato il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Li ascoltiamo e poi torniamo a parlare delle nostre orecchie. GR Salute. L'insonnia è nemica del cuore, ma in particolare di quello delle donne. Sì, è proprio così. Certi studi suggeriscono che l'insonnia sia un fattore di rischio per la pressione alta e le malattie del cuore, ne abbiamo già parlato. Adesso però una ricerca fatta in Inghilterra dimostra che da questo punto di vista l'insonnia è più pericolosa per le donne che per gli uomini. I ricercatori hanno studiato per un lungo periodo quasi 5.000 persone, di cui 3/4 erano maschi, interrogandoli sulla qualità del loro sonno. A queste persone sono stati fatti prelievi per misurare degli indici di infiammazione, sostanze che si trovano nel sangue, una si chiama interleuchina 6 per esempio, un nome difficile, un'altra proteina C reattiva. Queste sono proteine che correlano col rischio di avere la pressione alta e le malattie cardiovascolari. Ebbene, le donne che dormono poco, diciamo meno di 5 ore o anche meno di così, avevano tutto un aumento di questi indici, mentre a parità di ore dormite i maschi avevano valori più bassi e dunque meno rischio. Il fumo peggiora anche l'emicrania. C'è uno studio nuovo condotto in Spagna all'Università di Salamanca. Ha coinvolto quasi 400 studenti di medicina. La scelta di questo gruppo di soggetti volontari non è a caso. Gli studenti di medicina sono in grado di riconoscere un attacco di emicrania e lo sanno descrivere in modo molto accurato. I pochi studi precedenti che cercavano un collegamento tra fumo ed emicrania avevano il problema della definizione. Era imprecisa. I partecipanti non erano in grado di riconoscere i sintomi con sufficiente precisione. In questo studio la proporzione di giovani colpiti da emicrania era più alta, significativamente più alta, tra i fumatori che non tra i non fumatori. È emerso che gli attacchi di emicrania erano più frequenti quando il consumo di tabacco superava le 5 sigarette al giorno. L'emicrania è un problema piuttosto comune e per lo più chi ne soffre si cura da solo. Solo il 20% delle persone consulta uno specialista. Spesso, dicono gli specialisti, l'automedicazione aggrava però il problema dell'emicrania anziché risolverlo. Abbiamo Mario, ci chiama dalla provincia di Trento. Mario, buongiorno. Nicoletta, buongiorno. Come sta, grazie. Mario? Beh, abbastanza. Bene. Nicoletta, guarda, complimento per la tua trasmissione, guarda. Desideravo tanto ringraziarti, grazie per sempre. Ma grazie. Che ti voglio tanto bene, ti voglio. Grazie, ecco. Mario, ma veramente mi fai molto piacere. Allora, andiamo noi. Il sito di questo, io praticamente per 5-6 anni, no, l'orecchio sinistro aveva incominciato a buttarmi fuori un liquido, diciamo così, delle gocce di acqua, diciamo così, sì. No? Insomma, non so cosa sarà. E allora ho incominciato ad andare dall'otorino, dalla laringoiatria. Sì. La laringoiatra o la laringoiatria? Sì. Non so. Va bene, ma noi ci siamo capiti. Hanno un nome troppo difficile. Dovrebbero cambiarsi nome gli otorino. Sì. Ma comunque, allora uno mi dice, ma tu vi siete lavi le orecchie? Ma diamine, me le lavo tutti i giorni. Dice, questo è male. Perché dice, tu ti lavi troppo le orecchie, magari te le lavano anche 2 volte al giorno. Ma adesso 2 volte al giorno non so, se faccio una sudata, perché faccio molta bicicletta, no? Sì. Se faccio una sudata è chiaro, perché quando mi lavo, faccio la doccia, non sto lì a guardare. Certo. La mattina, guardare. Insomma, farla in breve, sono andata avanti per 5 anni così, no? Quando a un certo punto ho visto che continuavo ad andare da altri, o trino la lingoiatria, diciamo sì. No? Finché poi a un certo punto sono andato da uno di Padova, un professore universitario, e allora lui mi ha detto, perché mi si stava facendo dell'infezione dentro l'orecchio, no? Sì. Caspere, dice, questa qui è un'otite media. Ecco. Insomma, mi siete trovati in un'otite media, eccetera. Allora ho curato l'otite media praticamente con antibiotici, eccetera. E adesso come va? Ma dopo 3 mesi che ero guarito dall'otite media, no? Sì. Anche se sentivo qualche dolorino, ma una cosa stabilissima, sia l'orecchio sinistro che avevo curato. Che l'altro? Sì. L'orecchio destro, no? Una notte, verso le 2:30 di notte, mi ero alzato così per non dormire, grosso, perché sono un po' il pianoforte. No? Anche, guarda, Mario, ma lei è un uomo dalle... Mario, va in bici, suona il pianoforte e ha avuto questo otite media... Senta, ma quel liquido che usciva... È caduto Mario, forse. Pronto. Ma gli rispondiamo. Allora, prendiamo spunto da questa telefonata. Io penso che lui volesse dire che una notte ha avuto un giramento di testa. Infatti, anche secondo me. Ok, quindi io non penso che nel suo caso ci sia una sicura correlazione tra quello che ha avuto nell'orecchio e questo giramento di testa, verosimilmente da quello che lui ha raccontato. Poi bisognerebbe capire se quello liquido che usciva era un liquido proprio tipo acqua, come lui lo diceva, quindi una forma più legata magari a un fatto di tipo eczematoso o diciamo così irritativo, piuttosto che una vera e propria infezione tipo pus. Per cui nell'una o nell'altra situazione sono 2 situazioni completamente diverse. Quindi probabilmente, da quel che sembra di capire, lui ha avuto prima una cosa tipo acqua e quindi poi una cosa eczematosa, e poi invece si è trasformata in una forma di tipo purulenta o batterica, però, eccetera. Ecco, però, ma in questo caso non c'è, secondo me, correlazione. Potrebbe anche esserci in altri casi. Allora, noi siamo andati al mare, abbiamo fatto i tuffi, ci siamo protetti le orecchie, adesso noi andiamo in montagna, perché in linea con noi abbiamo Simone Moro, alpinista famosissimo. Simone, ciao! Ciao Nicoletta! Ma benvenuto! Grazie mille! Senti Simone, di solito c'è un trucco che viene suggerito per chi in montagna o in aereo magari dovesse avvertire fastidio o dolore all'orecchio, ed è quello di spingere aria nel naso tenendolo tappato, oppure masticare o deglutire forzatamente. Tu che ti arrampichi in alto, ma poi scopriremo che scendi anche molto in basso, perché tu fai anche sub, quindi non stai mai fermo, ecco, trovi che questo trucchetto funzioni? Funziona, lo consigli? Funziona bene. Io utilizzo sempre un unico sistema, così di non confondermi, è sempre quello, sia che vada in alto sia che vada sotto a fare immersioni, quindi è quello di tappare il naso e spingere soffiando. È chiaro che questo, io quando qualcuno che viene con me in montagna, o anche i miei colleghi mi dicono: oh, mi si è tappato le orecchie, mi fa male di qui di là, dico: guarda, è un buon segno, nel senso, vuol dire che funziona ancora tutto regolarmente, e quindi basta solo questo semplice gesto e rimetti tutto a posto. E poi io faccio sempre anche l'esempio della famosa magari bottiglietta di acqua minerale che noi abbiamo in macchina tappata, e magari andiamo a farci dei passi alpini in Dolomiti o in montagna, e vediamo che questa bottiglietta alcune volte si restringe, come se all'interno fosse risucchiata dell'aria, oppure si allarga. È esattamente quello che succede anche nel corpo umano: al cambio delle pressioni, che si va in alto, si va in basso, c'è bisogno di sfiatare questa bottiglietta, e lo sfiatare o il proteggersi da queste pressioni diverse lo si fa compensando, usiamo questo termine che lo capiscono bene i sub e lo capiscono comunque anche quelli che vanno in montagna. Allora, mandate un bacione al mitico bergamasco Simone anche da parte degli ascoltatori. Io non volevo baciarti proprio per radio, e allora prendo coraggio. Senti Simone, stai lì, perché abbiamo anche Roberto da Roma, oltre che al dottor Franzetti, che è un tuo fan. Roberto, buongiorno. Eccoci Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. La porto sul cucuzzolo della montagna insieme a Simone Moro. Insomma, non è che capita tutti i giorni, ma abbiamo anche il dottor Franzetti. Lei che cosa fa, Roberto? Io sono un assistente di volo. Quindi va ancora più in alto di Simone Moro. Qua è un duello. E a tal punto, per chi sta in aereo, sì, c'è anche un'altra cosa che faccio noi, sì, che è prendere una coppetta di quella del caffè, metterci un paio di tovagliolini, bagnarli con acqua calda e tirar via l'eccesso di acqua e applicarli sulle orecchie, magari dei bambini soprattutto, perché è difficile fargli fare questa manovra, e quello gli dà un po' di sollievo, perché mi spiegavano che l'acqua calda tende a fare una piccola depressione, cioè il caldo che si è creato, per cui aiuta un po' a ritendere il timpano verso l'esterno. Ah, bella questa cosa! Quindi quello aiuta un po'. Dottor Franzetti, lei la sapeva questa? Assolutamente non, Simone, la sapevo. Simone, tu la sapevi? Non lo sapevo, e vedi, tra l'altro sono anch'io un pilota, perché sono diventato pilota di elicottero, quindi mi si tappano le orecchie anche più alla svelta adesso, perché si sale più alla svelta. Bisogna, Simone, bisogna fermarlo. Roberto, però, oltre a questo consiglio prezioso, sì, lei magari ha una domanda, vuole fare qualcosa da chiedere al dottor Franzetti? Sì, al dottor Franzetti qualcosa. Io noi con la pressurizzazione siamo un po' soggetti a questi, diciamo, queste estensioni del timpano va dentro e fuori. Se c'era qualcosa che riuscivo a fare intanto per salvaguardarmi un po'. E poi io ho l'abitudine di anche ascoltare la musica, diciamo così, con le cuffiette che ci sono adesso, fatte un, sì, po' di silicone, un po' morbide, che un pochettino entrano nel condotto. E un po' per salvaguardarmi anche dai rumori dell'aeroplano stesso, e un po' per rilassarmi, sì, come dicevamo l'altra volta, per cercare un po' di riposare. Certo. Allora, sentiamo il dottor Franzetti. Certo. Due domande per... Velocissimo. Allora, per migliorare e per prevenire questi spostamenti del timpano, l'ideale è proprio che il naso funzioni bene, la tubo funzioni bene, e quindi avere proprio un'igiene e un'attenzione alla respirazione nasale. Per quel che riguarda invece gli auricolari, Gli auricolari per sentire la musica, soprattutto quando la musica ha dei toni acuti abbastanza elevati, non vanno mai bene di per sé. Perché? Perché portano una pressione sul condotto, sul timpano, su alcune frequenze che comunque risulta nel tempo sempre dannosa. Quindi se si usano gli auricolari la musica è molto bassa. Allora, Roberto però chiedeva anche qualche rimedio per prevenire quindi questo disturbo. Quindi vuol dire che deve tenere ben pulito il suo orecchio, controllato, vedere che tutte le componenti dell'orecchio funzionino bene. Il problema proprio del compenso, come diceva anche Simone, eccetera, è proprio legato alla funzionalità tubarica, quindi al naso. Quindi la prevenzione sull'orecchio è esattamente collegata in questo caso, soprattutto chi fa il pilota eccetera, a una prevenzione sul naso e sulla funzionalità tubarica, che può essere fatta o con esercizi tipo masticare la cicca eccetera, anche cose banali, fino a fare delle cure termali o cose del genere. Simone, se tu non devi prendere l'elicottero, non devi fare immersione, non ti devi arrampicare da qualche parte, vai in bicicletta dove bisogna legarlo per averlo in trasmissione. Io ti porterei insieme a me a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma mi sembra che questo a te non interessi granché, vero? Preferisci? No, interessa perché comunque sono io un mortale che si mette in coda, cerca di evitarlo. È l'unica volta in cui sta fermo. 824 0024, parliamo delle nostre orecchie, abbiamo in linea anche le orecchie di Simone Moro, alpinista. Simone, volevo chiederti, vogliamo iniziare a dare una raccomandazione a tanti dei nostri ascoltatori che magari stanno partendo per le vacanze, hanno scelto la montagna e quindi approfitteranno dell'occasione per fare passeggiate più o meno impegnative, e quindi facciamo una piccola raccomandazione, perché la montagna è magnifica ma va rispettata. Una raccomandazione che sembra banale, ma non lo è poi così tanto, è che tutti noi ormai abbiamo capito che bisogna proteggere la propria pelle mettendoci delle creme, soprattutto andando in montagna, dove il livello di irraggiamento è ancora più alto rispetto a quello del mare, perché ci sono qualche centinaio di metri, alcune volte anche qualche chilometro di aria in meno che filtra, certo. E quindi sono ancora più violenti i raggi del sole. Ebbene, noi ci mettiamo sempre la crema sulle braccia, sul viso, sulla fronte, e non la mettiamo mai sulle orecchie, e poi tante volte ci ustioniamo le orecchie. Infatti col professor Monfrecola, tanto che abbiamo proprio parlato di questo, abbiamo detto mettetevi la protezione sulle orecchie, perché scottatura dopo scottatura rischiate parecchio. E che sempre parlando di montagna, poi le orecchie si congelano anche, perché sono anche tra le prime parti che si raffreddano più di altre. Infatti in alta quota, e per alta quota non intendo solo gli 8.000 metri che vado a salire io, si intendono anche le andare a 3.000 metri, 4.000 metri, che sono anche le quote che sulle Alpi si raggiungono velocemente anche in 6 giorni di funivia. Bene, tenerle riparate, perché comunque il freddo e il vento ti stendono, nel senso che poi quando è preso un congelamento si sentono nelle orecchie. E non è bello. Senti, no. Simone, prima facciamo poi una rapida immersione, ma io ho tutti i tuoi ammiratori che mi stanno mandando moltissimi messaggi, e uno di questi, l'ultimo fresco, chiedi a Simone la prossima avventura, ti prego, ma io non posso non accontentare Igor. Dove allora, te ne andrai? Simone Moro, a parte il prossimo mese e mezzo che sono di nuovo negli Stati Uniti per prendere il brevetto commerciale di pilota di elicottero, andrò poi in Tibet. Andrò in Tibet e tenterò di aprire una via nuova su una parete inviolata che è alta più di 3 km, quindi 6 volte più alta della Tazzera del mondo, che questa montagna si chiama Choyu, è alta 8.200 metri. Ci proverò senza ossigeno per questa via nuova in stile alpino con un compagno italiano valdostano che si chiama Hervé Varmas. Quindi i progetti sono due, uno dell'aria, in modo che quando torno a casa sono abilitato a poter fare eventualmente anche il pilota di mestiere, e poi invece salgo a piedi fino a 8.200 metri. Questo è il progetto. Simone, mi deve mandare una fotografia. Adesso, mandacele, che noi così le mettiamo anche sul sito di Radio 24, non solo al dottor Franzetti. Ti aspettiamo. Senti, invece, un consiglio per chi si tuffa? Perché si tuffa, non deve aspettare di sentire male prima di cominciare a compensare, deve farlo frequentemente e regolarmente. Adesso, lasciando perdere chi fa immersioni, che ovviamente è stato adeguatamente istruito e sa come fare, e comunque anche a loro va bene questo remind, compensare tanto frequentemente senza aspettare che faccia un male cane l'orecchio, bisogna ricordare invece a quelli che le immersioni non le fanno, ma si trovano a doverle fare perché si è incastrata l'ancora del motoscafo, gli è caduto qualcosa in acqua, non vuole andarlo a recuperare e così via, e non lo sanno. Prendono un sacco di aria, vanno giù cercando di tenere duro e vengono su sopra felici che hanno recuperato il loro oggetto e con un male d'orecchie bestiale. Se non sono capaci, compensino prima di fare l'immersione, visto che poi a grandi profondità non vanno, e può bastare già quella compensazione lì. È giusta l'osservazione di non tenere duro, perché quella cosa lì è una battuta, ma che aiuta a capire come funziona il meccanismo. Hai ragione, Simone. Simone, io spero di sentirti presto e comunque ci teniamo in contatto. Senz'altro. Grazie, un abbraccio e baci a questo punto possiamo darglieli. Grazie a Simone Moro, andiamo a Franco che ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, per cortesia, io avevo già avuto una parziale risposta prima, nel senso di che dopo il bagno conveniva sciacquare sempre il condotto uditivo con l'acqua. Sì. Ecco, facendo acqua dolce. Acqua dolce, sì. Facendo il bagno a volte in acque ovviamente non cristalline, se può essere d'aiuto mettere anche dell'acqua ossigenata a fine bagno, se è una cosa troppo aggressiva, si può causare sì, dei danni. Sì, allora può essere d'aiuto tenendo conto sostanzialmente di due cose. Primo, che uno non deve avere il condotto troppo stretto, perché comunque il diciamo così il... ma come facciamo ad avere il condotto ad accorgersi guardando sa, quello dell'altro diciamo no, il mio ma, più piccolo no, ma uno lo sa. Chi ce l'ha di solito lo sa, perché quando fa la visita all'otorino gli viene detto che condotto stretto. Ah, va bene. No? E poi l'altra cosa, oppure quando si pulisce col cotton fioco oppure anche col dito se ne accorge, l'altra cosa non è ha che... il dito grande al condotto è il condotto piccolo. l'altra cosa invece di quando si fanno i lavaggi delle orecchie eccetera, stare molto attenti comunque di non farli con o acqua ossigenata o acqua dolce ma troppo fredda, perché sennò inizia a girare la testa. Capito. E questo certo, attenzione certo. E poi di non spararla violentemente dentro. Sì, beh, ovviamente senza troppa pressione. Comunque è una cosa che si può fare. Assolutamente si può fare, non, certo. Non è aggressiva l'acqua ossigenata. Assolutamente no. Ma tutti i giorni? No, tutti i giorni no, soltanto può essere fatta la sera in alcuni momenti quando uno pensa di essere stato esposto ad agenti particolarmente, diciamo, microbici. Ilaria ci chiama dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Ilaria. Buongiorno, grazie per avermi fatto intervenire. Grazie a lei, mi dica. Allora, senta, io ho due domande ma cercherò di essere molto breve. Allora, la prima è che, diciamo, da due anni a questa parte mi è stata diagnosticata in seguito ad episodi di sinusite un'ipertrofia dei turbinati medi. La qualcosa ultimamente mi sta dando anche dei fastidi alle orecchie, nel senso che mi si tappano alternativamente le orecchie, non... Chiaramente gli sbalzi di pressione aumentano quello cosa, che ma a volte... È l'argomento che abbiamo trattato prima, cioè questa situazione nasale che va a influire sulla tuba, che è il canalino che collega l'orecchio col naso. Assolutamente bisogna considerare questa situazione nasale, che adesso senza entrare nel merito però può essere risolta anche con cose molto poco cruente. Ecco. Cioè? Ad esempio, perché io e l'Ilaria siamo molto... Lei fa i lavaggi nasali. Sì, però non mi sembra che... Cioè, se non si riesce solo con trattamenti, diciamo, igienici o farmacologici locali, ormai anche esiste la possibilità di fare dei trattamenti delle mucose, dei turbinati con il laser, in anestesia locale senza tamponare il naso, che sono poco più che, diciamo così, fare un trattamento dal dentista e che risolvono brillantemente queste situazioni nasali. Vede, Ilaria, che c'è sempre da imparare. Questo del laser, quindi anestesia locale. Anestesia locale senza tamponare il naso. E tamponare il naso, perché sono quelle specie di cannoni che mettete a chi operate dal naso, voi. Che sono quelle che fanno quindi una bella paura. Senza dover fare una cosa del genere. Ecco. Quindi siete un po' più gentili. Assolutamente molto la più seconda gentili. Domanda, Ilaria, si è sollevata un po' il cuore. Ecco, ogni tanto, allora io sono molto sensibile ai rumori e può succedere che di notte a volte uso dei tappini di cera perché mi dà molto fastidio il rumore di notte. Volevo sapere se... una cosa molto controproducente, ovviamente non li schiaccio dentro forte, però mi aiutano soprattutto la mattina perché altrimenti i rumori mi svegliano. Guardi Ilaria, il problema dei tappini di cera è che spessissimo ne togliamo al pronto soccorso, perché uno li spinge un pochettino troppo in fondo, restano dentro dei pezzettini. Non è che è molto controproducente, però bisogna stare attenti. E c'è un materiale piuttosto che un altro da consigliare? Sì, perché poi... No, nel senso che la cera è proprio si rompe, per cui... E quelli in silicone, ci scrive Fabio da Roma, ma lui vuole sapere se può usarli per fare in apnea? Beh, quelli in silicone sicuramente sono meno dannosi perché non si spezzano e non restano dentro. Quindi, già, quindi ad Ilaria possiamo meglio, dire certo. Questo. E, Ilaria, quindi magari se deve proprio usare il tappo eviti quello di cera che quello potrebbe rompersi. Quello in silicone è meglio. Ma Fabio, può fare immersioni con gli stessi tappi che abbiamo suggerito a Ilaria in silicone? Troppo in profondità no, se fa il sub, perché sennò non riesce a compensare bene. Allora, poi ci sono dei tantissimi messaggi che sono arrivati, a parte quelli che mi hanno veramente invaso la posta per Simone Moro, e vado a cercarli. Sono ritorniamo con la pulizia delle orecchie con i coni di cera, se va fatta regolarmente, se è un metodo di detersione che lei consiglia, dottor Franzetti. Allora, è sicuramente, ha una sua efficacia. Io non sono uno spasimante dei coni. Sarebbe eccetera. Un po' triste. Nel senso che non mi piace come metodo, però a volte ne riconosco l'efficacia. D'altra parte, però, se non sono usati in maniera perfetta, spesso noi la parte finale dobbiamo estrarla dal pronto soccorso, perché uno arriva, brucia fino a un certo punto, non arriva fino in fondo, magari l'ha spinto leggermente più in fondo, gli dà dei problemi, deve venire al pronto soccorso, toglierlo, eccetera. Quindi un suo utilizzo troppo spesso io non lo farei. Quindi una volta ogni? Ma dipende da quanto uno forma i tappi di cerume, però io non lo utilizzerei una volta più di ogni due mesi. Ok, dottor Franzetti, grazie per essere stato con noi. Prego, un saluto a tutti. Ci vediamo e ci sentiamo presto, torni a trovarci. Intanto io vi saluto, ma come sempre vi do appuntamento a domani, dopo il GR delle 11. Intanto buonissima giornata da Nicoletta Carbone.